Allora, due parole sulla visione freudiana vista dagli occhi di Galimberti e la sintesi che lui ci fa. Va bene, tre istanze nella psiche: l'esse o inconscio, l'io e il superio. L'inconscio, inteso in senso freudiano, è l'inconscio pulsionale, cioè l'inconscio dove risiedono le due fondamentali pulsioni che sono la sessualità e l'aggressività. E Freud inizialmente li chiamava istinti, ma poi si convinse a chiamarle pulsioni, perché gli istinti sono propri degli animali, gli esseri umani non hanno istinti, nel senso che l'istinto è una risposta stereotipata, automatica ad uno stimolo, mentre la pulsione no, ci lascia un margine di libertà. L'inconscio pulsionale è anche l'inconscio naturale, cioè quello che ci viene dalla nostra tradizione, dalla nostra filogenesi. E infatti queste due pulsioni sono al servizio della specie, la pulsione sessuale per la riproduzione e la pulsione, invece l'altra pulsione, quella aggressiva, per la protezione della prole e anche eventualmente per il territorio, per mantenere il territorio, tutte queste cose qui che ci sono anche negli esseri umani, la pratica del territorio, così, cioè, sono molto presenti. Guardando invece l'inconscio, l'altro inconscio, cioè l'inconscio sociale o superio, è l'insieme delle norme che il bambino interiorizza in famiglia e poi nella società. Perché si chiama inconscio? Perché è automatico, perché non ci deve pensare, ormai sono norme interiorizzate a cui si obbedisce come fosse una pulsione normale. E l'io dove si colloca? L'io si colloca tra a metà, in balia tra questi due grandi forze, l'inconscio naturale e l'inconscio sociale, e deve continuamente mediare, perché l'inconscio naturale, l'inconscio pulsionale si regge dal principio del piacere, per cui quello che vorrebbe è la soddisfazione immediata della pulsione, tutto quello che vuole qui. L'inconscio sociale invece in parte reprime l'inconscio pulsionale, perché l'inconscio pulsionale direbbe difficilissima la convivenza, ecco, dal momento che le pulsioni poi ci porterebbero effettivamente a confliggere tra di noi in continuazione, distruggerebbe la società. Quindi poi nel libro importante, Il disagio della civiltà, Freud parla proprio di come l'essere umano comunque paga un prezzo per la sicurezza, per poter vivere nella civiltà, paga un prezzo in termini di soddisfazione, di piacere, perché il piacere è collegato alla pratica diretta delle pulsioni. Questo ci deriva da tutta la nostra filogenesi. Detta così, quindi, noi in realtà siamo per natura nevrotici, nel senso che l'io, che cos'è l'io? L'io è la parte di noi cosciente, il nostro governo della personalità, si trova ad avere a che fare con due forze che molto potenti, e lui deve mediare tra due forze che sono tra loro in contraddizione. Ecco. Quindi il conflitto è nella struttura e l'io non fa altro che cercare di contenere questo conflitto in limiti accettabili. Naturalmente, quanto più le pulsioni si radicalizzano, quanto più le norme sociali si radicalizzano, diventano dure, tanto più la vita dell'io diventa difficile, può addirittura non farcela. Ecco, precipitiamo nella psicosi quando l'io tracolla, a quel punto lì. Quindi nella visione freudiana la cura consiste nel fatto che l'io espande i suoi confini e comincia a controllare sempre meglio queste pulsioni e creare una compatibilità, rendendole più morbide, sia quelle sessuali sia quelle aggressive, in modo da renderle compatibili con le norme sociali. Dunque, la visione freudiana è molto diversa da quella che è poi la visione della psicologia umanistica. Prendo spunto da un articolo scritto da Eugenio Scalfari sull'Espresso, dove appunto parlava della visione freudiana, proprio perché in questi giorni è uscito da poco il libro, la riedizione del libro Disagio della civiltà. E allora lui diceva che, Scalfari sosteneva che, come noto, non ci sono solo queste due pulsioni, la pulsione aggressiva e la pulsione sessuale, perché è una pulsione anche quella che ci porta a essere socievoli, e questo ormai gli studi di etologia l'hanno confermato in tutti i modi possibili anche negli animali, e potremmo anche dire che la differenza tra la psicanalisi e la psicologia umanistica in fondo è questa, cioè che la psicanalisi considera come naturale la lotta con le pulsioni, mentre la psicologia umanistica ritiene che la lotta arriva quando le pulsioni sono state compresse, cioè l'aggressività non è un fenomeno naturale, nel senso l'aggressività cattiva, non è un fenomeno naturale, è un fenomeno che dipende dalle condizioni della cultura in cui viviamo. Se una cultura repressiva, beh, allora sì, effettivamente si svilupperà, si comprime la molla dell'aggressività e l'aggressività diventa dura, esplosiva. Quindi la psicologia umanistica è una visione molto più rasserenante di quella freudiana, che tutto sommato ci dipinge come esseri continuamente in preda a conflitti, senza praticamente soluzioni, se non questi continui adattamenti e quindi con un fondo depressivo. Ecco. Dovremmo dire dal punto di vista nostro che la psicologia freudiana poi manca di un pezzo fondamentale, che manca di molte psicologie, che è quella dell'inconscio superiore, cioè dove può avvenire la sintesi. In tutto sommato, come dicevi prima te, l'io freudiano è ancora un io mercantile, deve mercanteggiare, e quindi scambia un po' di sicurezza con per avere un po' di sicurezza trattiene un po' le pulsioni, ma insomma uno scambio, ecco. Mentre l'inconscio superiore, dove abita la visione transpersonale, è tutta un'altra cosa, cioè perché nella visione transpersonale noi siamo tutti apparteniamo a qualcosa di più grande, e quindi siamo come cellule di un grande organismo, quindi la nostra natura è cooperare, non contrastarci uno con gli altri in continuazione. Queste due visioni sono state anticipate da Lamarck e Darwin. Darwin, la vita nasce dalla lotta, quindi è lì che le specie si specializzano in conseguenza di una continua lotta tra di loro per la sopravvivenza, e quindi la sopravvivenza del più adatto, mentre la visione Lamarck è che invece la vita si nutre di cooperazione, soprattutto di cooperazione. La competizione esiste, non c'è dubbio, ma non è il punto centrale. Pensiamo a un organismo, dentro un organismo la cooperazione, per poter funzionare l'organismo deve essere massima. Il fegato deve cooperare col cuore, quindi ogni cellula che si è specializzata deve cooperare in un progetto unico, e questo progetto unico è diretto da una central voice. Quando questa central voice comincia a tacere, il corpo si disfa, insomma, non c'è più. Ora, noi sappiamo che l'umanità, oggi ci troviamo in serie difficoltà sul pianeta, dal punto di vista della nostra filogenesi come esseri umani, siamo abituati a vivere in piccoli gruppi. In quei piccoli gruppi effettivamente c'era supporto reciproco. Oggi di quei piccoli gruppi, che cosa è rimasto? Un po' la famiglia, le piccole associazioni, poco altro, che però non hanno la forza di una volta, perché una volta l'uomo aveva a che fare con la natura, aveva problemi di sopravvivenza. Oggi la nostra sopravvivenza non dipende più direttamente dal rapporto con la natura, ma dal rapporto con i nostri simili, quindi le cose si complicano a dismisura. Beh, quello che ci aspetta come umanità è di sviluppare una maggiore intelligenza ecologica, l'abbiamo detto infinite volte, quindi. E questo è il compito della spiritualità, sviluppare un'intelligenza che ci faccia comprendere come siamo parte di un unico più grande organismo, che appunto pensa solo al principio del pianeta visto come un unico grande organismo vivente, l'ipotesi Gaia, no? Che già veniva da Marsilio Ficino nel Rinascimento e poi riportato recentemente dal Lovelock. Ecco, e quindi il nostro compito è un compito diverso da quello freudiano, è quello di spostare le nostre identificazioni dalle parti in conflitto, vederle per quello che sono, ma non attribuirgli più energia del necessario, e invece spostare l'identificazione verso l'altro, verso le parti che ci uniscono a tutta l'umanità. Innanzitutto a noi stessi, e poi in cerchi sempre più ampi, poi a tutta l'umanità. E questa è la sfida etica, la vera sfida etica è questa qua. Non solo l'umanità, ovviamente, perché l'umanità non può vivere senza le piante e gli animali, quindi la sfida etica è quella di considerare ogni essere vivente parte del nostro ambiente come necessario, quindi degno del massimo rispetto, e quindi come il nostro amore si può imparare a espandere in ogni direzione, che poi è quello che insegna il buddismo, la figura del bodhisattva e così via. Okay.